Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata dell'Arcadia, grazie a Radio Big World. Io sono Gabriele e oggi è un po'. Quella puntata di oggi è un po' uno schiaffo a chi dice che dico un sacco di cavolate. Allora, vediamo di mettere a confronto quello che dicono gli scienziati. Quelli a cui credete, a cui diamo ascolto, a cui crediamo, chi dice che siamo andati nello spazio, siamo andati sulla Luna, che la Terra è una sfera, un globo, come lo volete chiamare, e per tanti invece non lo è. Quindi chiamo a testimoniare Bill Nye, the Science Guy. Bill Nye, the Science Guy. Bill Nye è un attore, secondo me è un attore, però lavora per la NASA, fa programmi in televisione in America, quindi ora sentiremo quello che dice per difendere il globo. Gli viene, in un programma gli viene fatto delle domande sul fatto che ci sono tante persone che credono che la Terra sia piatta, e sentiamo lui come risponde. I don't know how people believe that. We have classroom globes, we have spacecraft that take pictures. You can find documents from medieval times where people knew the world was round. Christopher Columbus knew the world was round. Dice: non lo so, non riesco nemmeno a immaginarmi come fa la gente a pensare una cosa di genere. Perché abbiamo i globi nelle classi, abbiamo prove del Medioevo in cui Colombo pensava che fosse un globo e ha provato che è un globo, ma facendo cosa? Trovando altra terra oltre l'oceano? Non è perché dall'altra parte della piscina c'è altra terra significa che la piscina è tonda. Non lo so, mi sembra un discorso un po' alla Va bene. Comunque continuiamo. Il fatto che Colombo abbia scoperto l'America, a parte il fatto che non è stato lui a scoprire l'America, ma era già stata scoperta e ci sono le prove che era già stata scoperta l'America, e comunque non prova che è un globo. Perché non prova che è un globo? Perché ci sono mappe molto più vecchie rispetto a Colombo in cui non è un globo, che venivano usate per la navigazione, venivano usate per il commercio. Insomma, si tratta di diversi anni fa, sono state usate per anni e anni. Se fossero state sbagliate, ci sarebbe, insomma, se ne sarebbero accorti, no? Quindi dice: abbiamo i globi nelle classi e Cristoforo Colombo, ma non ci dice che ci viene insegnato e si cascasse fuori dai bordo. Sì, è vero, ci viene insegnato di Cristoforo Colombo, ma ci viene insegnato anche che si casca dal bordo. In quel periodo lì erano tutti convinti che si cascasse dal bordo. Io mi ricordo sia nel libro che in televisione, nei cartoni animati, e la maestra che mi dicevano che si cascava una volta, pensavano si cascasse fuori dal bordo, finché Colombo non ha provato che non c'è nessun bordo. Vabbè, mi sembra tutta una grande storia di fantasia questa che ci viene raccontata, di Colombo, del fatto che si potesse cascare dai bordo, perché chi ha fatto le proprie ricerche della Terra piatta sa che non c'è nessun bordo, sa che non è mai esistito nessun bordo. L'unico bordo che c'è è quello che ci siamo fatti nella testa, ci siamo costruiti un muro che non vogliamo varcare per cercare le risposte. Quindi sentiamo cos'altro ha da dirci Bill riguardo a le prove che è un globo, per cui non dobbiamo pensare che sia piatta, ma che in realtà è un globo. Sentiamo quello che ha da dire. It's round. Okay, now let's see. How do we go about proving that? Go to the top of a hill or a mountain and you'll see a little farther, but you will not see to the other side of the earth, places we know to exist. And the other thing, if you want to get into this, if you're really serious, if your friends are really serious, have them get on a boat or a ship and go out at sea, and you'll notice you can't see infinitely far. E qui dice, è tonda, possiamo andare su una collina o su una montagna e ci rendiamo conto che non possiamo vedere più di tanto lontano. Ma questo lo sappiamo benissimo tutti, che non possiamo vedere più di un tot. È inutile dire non puoi vedere fino a un certo punto e quindi è tonda. No, non è perché io non riesco a vedere oltre una certa distanza, significa che è lì curva e quindi non vedo. Lo stesso discorso per le barche. Non ha senso. Sappiamo che l'occhio umano ha delle limitazioni, come lo ha quello di un animale, lo ha quello, no? Ogni creatura ha i suoi limiti. Noi riusciamo a fare tante cose, ma non possiamo vedere all'infinito. Anzi, andando su una collina o su una montagna ci rendiamo conto che è piatta, che non c'è nessuna curvatura, che vediamo quello che non dovremmo poter vedere per via della curvatura. Quindi questo che ci dice cos'è, a cosa serve? Non è una prova, anzi, provate ad andare davvero su una collina o su una montagna, vi renderete conto che se fate i calcoli per calcolare la curvatura, per vedere se quello che vedete da lì, dalla montagna, lo dovreste poter vedere o no, vi rendete conto che non potreste vedere un sacco di cose, ma in realtà le vedete. E questo smonta quello che dice questo scienziato della NASA, attore della NASA. Dice, provate ad andare su una barca e vi renderete conto che non potete vedere all'infinito, infinitely far, cioè infinitamente lontano. Ovvio che non posso vedere infinitamente lontano, c'è da considerare tanti fattori, la densità dell'aria, lo smog, ce n'è tante, e sappiamo che l'occhio umano non può vedere all'infinito. Se non avrebbero inventato i binocoli, i cannocchiali, i telescopi, che servirebbero se l'occhio, se si potesse davvero vedere all'infinito? Dai, è ridicolo. Il fatto che non posso vedere all'infinito non significa che è tondo. Sentiamo cos'altro ha da dire, perché queste sono cavolate, dai. Cioè, uno ti viene a chiedere le prove per cui la Terra è tonda e mi dici che è tonda perché non posso vedere all'infinito. Ora, mi sembra stupido come ragionamento. Dai, che altro ci può dire questo scienziato riguardo alla forma della Terra? Come possiamo convincerci che non è piatta ma è un globo? Just start there. Then if you'd like, look at pictures from space where you see the Earth as a sphere. Those pictures are not fake. Scusate, ma mi fa ridere quando uno dice, perché mi dice, guardiamo le foto dallo spazio. Dice, non sono finte le foto dallo spazio. Quelle sono la prova che non è piatta, ma è un globo. Dice, non sono finte le foto dello spazio. Ma come non sono finte? Di questa cosa ne abbiamo già parlato. che potete benissimo provare anche da voi, andare sul sito della NASA, scaricare le immagini, tipo l'Apollo 11, 15, ce n'è un'infinità, e potete provare con Photoshop che sono fatte, che sono ritoccate, non sono foto reali, e comunque poi non tornano le dimensioni della Terra, dei continenti. C'è le prove che è stato fatto copia e incolla sulle nuvole che si vede sulla Terra, addirittura si vede la parola scritta sex in una foto. C'è una foto della Terra, se la girate di 180 gradi si legge la parola sex. Quindi queste sono cose che potete provare da voi, potete provare voi stessi con le vostre mani. Quindi a cosa credete? Credete a quello che vi dice uno pseudoscienziato attore, o credete a quello che vedono i vostri occhi? Cosa vedono i vostri occhi se fate le vostre ricerche? Vedono la menzogna. Uno la deve accettare per quello che è, non potete continuare a difendere quello che è indifendibile, perché il globo ormai è indifendibile. Quindi sentiamo perché non possono essere finte queste foto, perché ci dà anche una spiegazione per cui secondo lui non possono essere finte queste foto. Sentiamo. Then I'll tell you, just if nothing else, here's why you can tell they're not faked. Just to create the paperwork that NASA has created for NASA in this one case, just the paperwork to send anything out in space, to send people into orbit or to send them to the moon, that amount of paperwork would make faking it prohibitively expensive. No one could afford to generate that much documentation. E qui ci dice non sono finte perché la montagna di lavoro e di soldi che servirebbe per creare tutto quello che vediamo, soprattutto per mandare le persone in orbita sulla Terra o sulla Luna, la quantità di materiale, di carta, documenti, sarebbe proibitiva a livelli monetari per far fingere tutto. Però ricordiamo quanto prende la NASA, e non c'è solo la NASA, in questo caso si parla della NASA che prende miliardi. Mentre ci sono persone che muoiono di fame e ci sono le guerre, però la NASA prende miliardi per farci vedere cartoni, perché è quello che sono cartoni animati, non sono immagini vere, sono immagini fatte ai computer grafica, Photoshop. È un inganno, è una frode che ci fanno, e qui ci siamo, okay, è finto, ci stanno mentendo, ci ha mentito. Penso in pochi riusciranno a controbattere questa cosa. Questo è un po' lo schiaffo che vi dovrebbe svegliare, vi dovrebbe far rendere conto, dovrebbe farvi dividere la realtà dalla fantasia, okay? A prescindere di come è la Terra davvero, però quello che vi viene detto, quello che vi viene insegnato è finto, non è reale. Va bene? Sentiamo cos'altro ha da dire, perché c'ha da dire altre cose. Sentiamo. And if you want to get into it, the Earth isn't quite a sphere. It's a little bleh. Its spin is a little bleh. Stretched it, made it slightly oblate, as the saying goes. E qui dice, se vogliamo davvero entrare nel discorso un'altra volta, la Terra non è proprio una sfera, ma è, fa qui verso orribile, non è proprio tonda, ma è più schiacciata, è schiacciata ai poli. Allora perché ci fanno vedere quelle foto tonde, quelle foto con la Terra perfettamente tonda? Perché nel libro di scuola, perché nei libri di scienze, perché su internet vedo questa sfera perfetta? Perché è una sfera perfetta, come guarda caso tutti gli altri pianeti che ci fanno vedere, che ci fa vedere la NASA, tutti gli altri pianeti sono perfettamente sferici. E qui ho un'altra cosa che va contro, praticamente si contraddicono a vicenda, perché c'è un altro attore trattino scienziato della NASA che ovviamente anche lui è andato in programmi televisivi, radio e tutto il resto per cercare di frenare un po' questo movimento della Terra piatta. Si tratta di Neil deGrasse Tyson, non so se l'ho pronunciato bene, comunque non penso sia nemmeno il suo vero nome, che dice questo: Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere, it's oblate, and officially it's an oblate spheroid, that's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. Yeah. So, it turns out the pear-shapedness is bigger than the height of Mount Everest above sea level. Anche lui cosa ci dice? Ci dice che è più schiacciata ai poli, è più larga ai lati, e che non è proprio una sfera, ma è più, ha più la forma di una pera. Cioè, vi rendete conto, c'è qualcuno che ci dice che ha più la forma di una pera. No, allora, o è un obloide sferoide, come ha detto ora in questo caso Tyson, o è una pera, come ha sempre detto Tyson in questo caso. Quindi com'è? È una sfera perfetta? È una pera? È una... che forma ha? Vabbè, troviamoci d'accordo, ci sarà un luogo comune su cui tutti gli scienziati sono d'accordo. Uno mi può dire che è tonda, poi dopo mi dice no, è schiacciata ai poli, è un obloide sferoide, e poi dopo mi dice no, non è nemmeno quello, ma è una... ha più la forma di una pera. Non torna. Mi fate vedere le foto di una sfera perfetta e mi dite che non è una sfera perfetta. Allora, c'è qualcosa che non torna. O è una sfera, o è una pera, o è qualche altra cosa. Quello che vedo io è che è piatta. Quello che sento io sono un sacco di menzogne. E a voi sta ricercare e scegliere a cosa credere. Nessuno vi deve dire a cosa credere. Siete voi che dovete decidere a cosa credere nella vostra vita. L'unico modo è fare le proprie ricerche, aprire la mente a concetti che possono sembrare stupidi, ma dovete aprire la mente, aprire gli occhi e riuscire a vedere oltre il velo di bugie e di menzogne che ci propongono tutti i giorni. Fin qui per ora è tutto. Io spero che questo confronto tra realtà e scienziati vi possa aiutare nel vostro percorso. E dall'Arcadia è tutto. Uno speciale ringraziamento a Radio Big World. Io sono Gabriele, alla prossima.